già nella filosofia italiana dell'Europa, agli inizi, negli anni 50, ci fosse la convinzione che questo paese le cose avrebbe potuto farle soltanto se in qualche modo le fossero state imposte, non dall'esterno, non da un potere autoritario a cui l'Italia non partecipa, ma da un potere collegiale di cui l'Italia è parte e che con la sua autorevolezza poteva far fare alla classe politica italiana ciò che da sola non sarebbe riuscita a fare. Vede, quando si parla di quello che sta accadendo in questi giorni, devo dire che anch'io avrei preferito una decisione spontanea del governo italiano, mi sarebbe piaciuto che il governo italiano fosse arrivato a quelle conclusioni senza aspettare che glielo dicesse qualcun altro. Però ricordo che nel 1992, quando Giuliano Amato andò da Kohl, cercò di essere aiutato nella lotta contro la speculazione, che in quel momento aveva di mira due grandi valute europee, la sterlina e la lira. Kohl gli disse con molto garbo, con grande gentilezza, anche con grande affetto peraltro, che la Germania non avrebbe fatto nulla, avrebbe difeso il franco francese ma non avrebbe difeso la lira. Beh, oggi invece noi assistiamo a una situazione in cui la Banca Centrale Europea è diventata la banca di ultima istanza dell'Italia. Ma io ne sono contento e francamente un anno fa non mi sarei aspettato dalla Banca Centrale Europea un gesto come questo. Voglio dire, dietro tutto questo turbinio di notizie cattive, di scontri, di polemiche nazionali e molto preelettorali, per così dire, c'è un fatto nuovo. L'euro sta diventando la moneta di tutti, perché se a un certo punto la Banca Centrale Europea mi compra i bond, e se lo fa dopo aver evidentemente deciso al vertice della Banca Centrale Europea con l'accordo della Repubblica Federale di agire in questo senso, beh, tutto sommato lo valuterei come uno straordinario progresso. Quanto poi al fatto che la politica economica venga dettata da altri, boh, mi sembra che sta peggio Obama in questo momento, perché se lei ha letto il comunicato di Xinhua, l'agenzia di stampa cinese, in cui la Cina dice, perché quella è la Cina che parla, l'agenzia di stampa cinese è soltanto un portavoce, dice: beh, è ora che l'America si renda conto che così non può vivere, che le sue spese militari, le sue spese assistenziali, deve rendersi conto che sono finiti i bei giorni in cui poteva prendere a prestito denaro in giro per il mondo e rimediare in questo modo ai pasticci di cui era responsabile.